Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui da Udine. Andremo avanti fino alle ore 21:30, ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Questa era la sigla iniziale, brano come, che teniamo come sigla iniziale di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21:30, anche oggi giovedì 14 marzo. E questo programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste, ma ora andiamo invece all'ascolto di questa band che devo dire l'abbiamo passata più volte, ma anche insomma ha fatto all'incirca 3-4 uscite nei primi anni 2000, il periodo che è esistita questa band. Loro sono gli australiani Schifosi, questa è la loro ultima uscita del 2007, un EP 12 pollici, comunque uscito grazie alla alla etichetta tedesca Alerta Antifascista. Andiamo allora all'ascolto di questo EP 12 pollici, Absentium Existence. Loro sono gli Schifosi, direttamente dall'Australia. Sì, sì, ritrovati a chi è in ascolto di Zernis Magnetics. Allora, iniziamo facendo un salto fino all'8 di marzo, cioè la scorsa settimana, per ritornare sulla questione della videoconferenza e nello specifico ritorniamo a una breve sintesi del presidio che abbiamo fatto in solidarietà con Stecco, appunto venerdì 8 marzo davanti al Tribunale di Trieste, e contro la videoconferenza. Allora, l'udienza, che era a porte chiuse, di venerdì 8 marzo è stata rinviata e Stecco ha rinunciato, come aveva già annunciato, a comparire, appunto per boicottare questo infame metodo della videoconferenza. La difesa ha depositato le sentenze di assoluzione dei coimputati per i reati contestati a Stecco E visto che il processo specificamente era per manifestazione non autorizzata, si era già svolto mentre Luca era latitante. Le prossime udienze, nel corso delle quali verrà rinnovata l'istanza affinché il compagno possa essere tradotto in tribunale e possa essere presente quindi al processo, le prossime udienze, dicevo, si terranno il 19 aprile e il 10 maggio e non saranno a porte chiuse, quindi questa è una cosa, è già un passo avanti rispetto all'udienza dell'8 marzo. E restando sempre sull'8 marzo, allora, come dicevamo anche la scorsa settimana, anche l'8 marzo c'è stata un'udienza anche per Luigi, compagno inquisito per l'operazione Scripta Scelera, e quindi che riguarda la pubblicazione e diffusione di Besmottivni, e del quindicinale anarchico Besmottivni. Appunto, l'8 marzo c'era questa udienza alla quale Luigi ha potuto partecipare in videoconferenza, pur essendo non in carcere, ma agli arresti domiciliari con tutte le restrizioni, e quindi è stato praticamente tradotto dai carabinieri da Massa, dove si trovava, dove si trova agli arresti domiciliari e dove era la sede del processo. È stato tradotto a Bologna in carcere, dal quale, dalla sala attrezzata di Bologna, ha fatto insomma questa videoconferenza, ha partecipato all'udienza di videoconferenza, e in questa occasione ha letto una dichiarazione che magari vi leggiamo un pezzetto. In questi mesi ho assistito alle lagne governative, anche in ambito giudiziario, sul pessimo trattamento di una compagna detenuta a Budapest, Ilaria Salis. Lagne che non solo non smuovono una foglia secca, ma che non sono nient'altro che becera ipocrisia. Infatti, in Italia, spesso alle udienze i detenuti, in special modo quelli rivoluzionari, manco ci possono essere, nemmeno in catene. Come serpi velenose, aggirate tecniche di brutalità che definireste antidemocratiche, utilizzando uno strumento come la videoconferenza. Sicuramente questo è anche il modo di affrontare le cose all'italiana, perché gli apparati burocratici semplicemente non hanno voglia di alzare il posteriore dai propri banchi e accompagnare un uomo davanti al giudizio terreno. Ma non credo proprio sia tutto qui. Credo invece, come è anche ben descritto dalla notifica che mi è pervenuta, che il vostro sia un tentativo in questo preciso caso di desolidarizzazione. Ma vi piaccia o meno, fin quando giudicherete i rivoluzionari, fin quando ci arresterete, le aule rimarranno terreni di lotta. E questo, da un certo punto di vista, lo avete deciso voi. Sì, ed è sulla, appunto, sul processo con giudizio immediato per l'operazione Scripta Scelera c'è un aggiornamento che è arrivato proprio oggi, e la prossima udienza è fissata per il 29 marzo. Allora, il giudice ha rigettato l'istanza di nullità dell'udienza presentata dagli avvocati della difesa sulla base della decisione di far partecipare Luigi in videoconferenza. Si sono costituite le parti civili e sono state presentate le liste dei testimoni. L'Avvocatura dello Stato si è costituita in parte civile per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Repubblica, sostenendo che Besmottivni abbia causato un danno d'immagine allo Stato e alla pubblica amministrazione. Non è stato affidato l'incarico al perito per la trascrizione delle intercettazioni, perché la perita designata ha sottolineato l'impossibilità di finire il lavoro da sola nel tempo massimo a sua disposizione, che sarebbero 6 mesi. Alla prossima udienza il giudice conta di assegnare un incarico collegiale. Nel frattempo il processo proseguirà senza che le trascrizioni delle intercettazioni siano disponibili. Durante la prossima udienza inizieranno gli esami dei testi dell'accusa, in particolare verranno sentiti il sostituto commissario Ardolino e l'ispettore Canosa del Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Roma. Venerdì 29 marzo, quindi data di questa prossima udienza, il giudice ha disposto la traduzione di tutti gli imputati, compreso Luigi, che verrà tradotto dalla polizia penitenziaria, riservandosi tuttavia di poter cambiare idea nel caso emergano elementi di rischio per la sicurezza dell'ordine pubblico. Solidarizziamo con gli imputati e rompiamo ogni tentativo di isolamento. Bene, questo era il brano Il Duomo in faccia, credo sia logico il riferimento. Qual è comunque questa band? Era una band di Trieste, esistita all'incirca una quindicina di anni fa. Questa era la loro uscita su CD, una specie di demo CD, demo tape, ne fecero due. E, loro sono in Catastrofa da Trieste. Sì, e passiamo dalla videoconferenza alla sorveglianza speciale. Allora, una notizia diciamo positiva è questa, che Marco Marino, il compagno Zac, è stato scarcerato dalla sezione Alta Sicurezza 2 del carcere di Terni e ha ottenuto gli arresti domiciliari e tra l'altro ha potuto trasferirsi autonomamente verso casa sua e ha la possibilità di vedere coabitanti, persone vicine, care. Però c'è questa, pende sul suo capo questa richiesta, cioè questa applicazione della misura di sorveglianza speciale, praticamente che dovrebbe durare 2 anni e 6 mesi dopo la scarcerazione. Questa sorveglianza speciale è un dispositivo micidiale di controllo, allora prevede svariate restrizioni: di non allontanarsi dall'abitazione senza preventivo avviso dell'autorità di sorveglianza, di non uscire prima delle 7 del mattino e non rientrare dopo le 20, di non associarsi abitualmente a persone condannate o preposte a misure di prevenzione o sicurezza, di non accedere a esercizi pubblici e di pubblico trattenimento, di vivere onestamente rispettando le leggi, di non detenere né portare armi, di darsi alla ricerca di un lavoro, quindi anche moralismo, di non partecipare a pubbliche riunioni, di portare sempre con sé la carta di permanenza, di presentarsi ogni domenica o comunque a ogni invito all'autorità preposta alla sorveglianza. E a ciò, a tutte queste vessazioni, si aggiunge anche una cauzione di 3.000 euro che il compagno dovrebbe versare come garanzia. Allora, ci sarà l'appello a questa misura, contro questa misura preventiva della sorveglianza speciale, e sarà questo appello il 7 maggio, quindi magari così daremo aggiornamenti anche su questa vicenda di Zac. E io volevo approfittare di questa faccenda qua, appunto, cioè non c'entra, ma c'entra perché c'entra col carcere di Terni, l'alta sicurezza, e anche con il fatto che si può finire in alta sicurezza così anche. Beh, Zac ha fatto 1 anno e poi appunto gli hanno dato i domiciliari, però in alta sorveglianza insomma si può essere detenuti abbastanza facilmente, diciamo, di questi tempi. Allora, a Terni, quindi Zac è uscito da Terni, però a Terni da fine gennaio si trova detenuto un prigioniero palestinese, Anan Yaesh, che è un prigioniero per il quale c'è una minaccia di estradizione. verso Israele. Una minaccia, c'è stato, diciamo, questo mandato congiunto Israele-Italia per la sua estradizione. Tra l'altro l'estradizione è stata chiesta proprio da Nordio, dal ministro. Allora, Hanan è originario della Cisgiordania e ha condotto in Cisgiordania la propria attività politica nell'ambito della seconda intifada. È un ragazzo di 37 anni e ha scontato già 4 anni nelle carceri israeliane. Nel 2017, dopo varie vicissitudini, giunge in Italia, dove si ferma riuscendo ad ottenere una protezione speciale, quindi un permesso di soggiorno per motivi politici, appunto perché gli viene riconosciuto il rischio di persecuzione politica da parte di Israele. E dopo, nel 2023, lui torna insomma in Cisgiordania, poi a novembre ritorna all'Aquila, dove viene arrestato. Però che cosa succede? Allora, praticamente la storia sua è abbastanza paradigmatica. Nel 2006 subisce un agguato dalle forze speciali israeliane, durante il quale riporta gravi ferite. Nel 2013 lascia la Palestina e, come dicevo prima, dal 2017 vive all'Aquila. Nel 2023 va in Giordania, dove viene rapito dai servizi di sicurezza del paese, probabilmente allo scopo di essere consegnato a Israele. Però, diciamo, un movimento di popolo riesce a farlo liberare, a farlo rilasciare, e quindi l'arresto avviene in Italia con questo mandato di cattura italo-israeliano. Le accuse su questo compagno, che pesano su questo compagno, sono di aver finanziato la brigata di autodifesa di Tulkarem, che è la località, la cittadina della sua nascita, insomma della sua origine, e aver anche finanziato e aizzato il campo profughi di Tulkarem, che è di circa 100.000 abitanti. Hanan è difeso dall'avvocato Rossi Albertini, tra l'altro. Il 12 marzo, appunto, quindi 2 giorni fa, c'era l'udienza per la revoca della misura cautelare in carcere di Hanan, in quanto, secondo la difesa, giustamente, ci sono le condizioni ostative per l'estradizione, vista la situazione che c'è adesso, insomma, di genocidio, e quindi un rischio per l'incolumità, ma anche un rischio anche di morte per questo compagno se dovesse essere estradato. E quindi la difesa sostiene che dovrebbe cadere anche la misura cautelare in carcere, essendoci queste condizioni ostative per la sua estradizione. Io non so, ma non sono riuscita a trovare, diciamo, l'esito di questa udienza del 12 di marzo. Speriamo di dare aggiornamenti nei prossimi, sì, al prossimo appuntamento nostro. Go! Intanto stiamo ascoltando in sottofondo questa band statunitense, un po' genere così punk, definiamo come vogliamo, insomma, vabbè, loro sono gli Anti-Flag, The Terror State, questo è l'album Innocence is the First Casualty, datato 2003. Ecco, allora un saluto a tutte voi, tutti voi che siete in ascolto questa, anche questa sera, questo giovedì sera, qui dagli studi, in diretta dagli studi di Via Volturno 29, Udine, Radio Onde Furlane, che ci ospita per Zardins Magnetics di giovedì 14 marzo, 8:35, quasi 36. Abbiamo preparato così un contributo, diciamo un registrato, ma non si tratta dei soliti, delle solite letture, è un proprio documento d'archivio reperito così sul web. In occasione abbiamo pensato del centenario così delle varie 100 anni dalla nascita. Sì, ma volevo dire, ho capito, Franco Basaglia nasceva mi ricordo adesso 11 marzo 1924, quindi 2024 è stata indetta una giornata, mi sembra che era martedì 12, allora è stata indetta una serie di celebrazioni, dai, diciamo così, in tutta Italia, in tutte, anche capillarmente qui Friuli Venezia Giulia, particolarmente assillante la questione per ovvi motivi, non solo Trieste appunto, ma tutta la regione coinvolta su questa vicenda. Ecco, siamo anche io personalmente stufo di sentire sempre le solite così cialtronate da parte di insomma quelli che non hanno altro che da celebrare l'esistente. Ecco, invece abbiamo reperito questo contributo da parte di Piero Coppo. Piero Coppo scrive un libro negli anni, che insomma viene pubblicato nel 1980, lui lo scrive lungo gli anni 70, si chiamava Psicopatologia del non vissuto quotidiano ed era un esito, diciamo, della sua anche partecipazione al all'UD, Consigli Proletari, vi ricordate, avevamo dedicato alcune puntate sia all'UD Consigli Proletari, sia poi a Organizzazione Consigliarista, sia anche a Comontismo quest'estate, sono usciti dei volumi insomma che raccolgono tutta una serie di documenti di Nautilus, ma Piero Coppo appunto apparteneva così all'ambiente genovese, quindi ecco, aveva partecipato a LUD, però poi prende la sua strada, è medico, sì, laureato in medicina e chirurgia, specialista in neuropsichiatria, psicoterapeuta, fa le sue esperienze di cui parla anche in questo contributo radiofonico che manderemo fra poco, e ecco, successivamente conosce Giorgio Cesarano, eccetera, vive anche insieme un'esperienza di comunità con lui, insomma, in Toscana, sempre negli anni 70. Però noi adesso ecco, ci dedichiamo a questa intervista che stata registrata in una data indefinita tra il 78 e l'80, quando appunto Radio Specchio Rosso, questo è il nome di questa radio di movimento che esisteva, e qualcuno ha registrato sulla musica, sì, su quei, sui NAS, su Nastro, e a sua volta l'ha pubblicato su internet. Radio Specchio Rosso era una radio, diciamo, del così satellite di Leoncavallo, ed è stata attiva tra il 78 e l'80. Ecco, il compagno che organizzava questa intervista è più così, sì, come ascolterete, noi abbiamo fatto un montaggio, non la mandiamo tutta perché erano 40 minuti. Abbiamo mandato le cose che interessavano di più. Ecco, noi ci interessava questo aspetto, cioè di ecco, superare un po' questa concezione per cui la malattia mentale è effetto del oppressione, repressione della società, eccetera. Quindi la società, bisogna lavorare sulla società, no? Lavoro di rete, eccetera, eccetera, eccetera. Tagliamola corta perché sennò qua stasera è lunga. E invece ci ha colpito il fatto di superare appunto questa concezione e mettere, come abbiamo messo nelle frasi promozionali della puntata di stasera, ecco, quando un individuo, perché si parla qua sempre di individuo, non si dice altro, insomma, ma comunque, quando un individuo attraversa una crisi, che può essere anche un, ecco, in termini tecnici uno scompenso, no? Lo chiamano gli psichiatri, però non è ecco, può essere l'inizio di una critica pratica della propria vita, della propria immagine rassicurante di sé. Perde sicurezza, questa immagine rassicurante, e diventa un, possiamo dire, una porta, ecco, una porta aperta su un sul poter dare la svolta. Ecco, se si è in una posizione di forza, come vi spiegherà Piero Coppo, come spiegava Piero Coppo in questa intervista, Piero Coppo ci ha lasciato nel 2021. E ecco, se uno ha la forza, cioè è anche sostenuto da altri, ecco, non è da solo, non è lasciato abbandonato, ecco, non è lasciato indietro, può vivere questa situazione che è brutta, insomma, di crisi, di insonni, con vari, ecco, anche sintomi, possiamo dire, come un'esperienza critica, e la supera e va al di là di questa situazione, semplicemente qua approda un altro, però non, naturalmente non puoi lasciarla, non può essere lasciato, ecco, abbandonato, ecco, è una questione complicata. Io adesso però mi fermo e mandiamo finalmente questo benedetto contributo. Piero Coppo da Radio Specchio Rosso, intervista. Radio Specchio Rosso, FM 103 500, spazio fantasma. Intervista con Piero Coppo, medico chirurgo specialista neuropsichiatra, su problemi della psichiatria come forma di riadattamento alla produzione capitalistica. Va bene, cominciamo con una presentazione generale. Dumb, that's what you come to expect. Hai nominato Basaglia, no? Sembra che ci sia un notevole carico di critiche rispetto a questo tipo di esperienza che hai incontrato nella tua vita. Ma io non ho vissuto direttamente nessuna esperienza realmente di lavoro con Basaglia. Cioè, ho visto quello che lui stava facendo, non l'ho trovato molto interessante e ho cercato altre cose. In grosso modo penso che il lavoro di Basaglia sia stato abbastanza importante, cioè questa questione dell'abolizione dell'ospedale psichiatrico che adesso si concretizza realmente su tutto il territorio nazionale e in un forse uno dei primi paesi d'Europa o del mondo che arriva a fare questo, cioè a abolire l'ospedale psichiatrico. Questo succede grazie al lavoro di Basaglia, che ed è un fatto positivo, perché l'ospedale psichiatrico si sa che produceva molta malattia mentale. Però chiaramente questo non basta, perché si è abolito l'ospedale psichiatrico nel momento in cui si è psichiatrizzata l'intera società, e allora l'ospedale psichiatrico non serviva più. Ora, è chiaro che ciò che ha fatto Basaglia è utile, perché il manicomio produceva malattia, però il suo discorso è un discorso parziale, cioè non è un discorso totale. La malattia, da tanti punti di vista, uno è per esempio quello che la malattia mentale non è soltanto il risultato di una repressione o di un'oppressione a livello sociale, qualcosa di molto più complesso. E infatti, per esempio, nelle ricerche che poi ho fatto dopo, insieme ad altri, in altri paesi che hanno strutture sociali completamente diverse da quella nostra, o perché hanno altre forme di capitalismo, o perché sono forme preesistenti al capitalismo, io ho trovato la malattia mentale sotto forme abbastanza simili a quelle che ci sono qui. Quindi, cioè, la malattia mentale esiste, non è che non esiste. E poi la società si difende dalla malattia mentale in modi diversi. Qui si può difendere in un modo particolare, in altri paesi si difende in altro modo, in altre strutture si difende in altro modo. Comunque la malattia mentale esiste, non la si può negare e dire che è semplicemente il risultato di una repressione sociale. Insomma, questa era una delle ragioni per cui non mi sono trovato d'accordo completamente con l'impostazione basagliana. Capito? No, una cosa che tu hai nominato, no? Ma è una delle cose sulle quali vorrei un chiarimento, è quando hai detto che si sta psichiatrizzando tutta la società. E quindi questa psichiatrizzazione della società vuol dire, secondo me, un controllo molto più capillare e diffuso da parte degli operatori psicosociologi o sociopsicologi, che quindi un controllo molto più moderno, molto più progressista, molto meno duro, crudele e violento di come era una volta. Comunque è sempre una cosa funzionale alla produzione, cioè quando uno ne esce fuori per qualunque motivo dallo schema della produzione, come si manifesta oggi, anche nelle maniere più blande, questa non come ideologia ma proprio come non volontà a essere partecipe al processo attuale, è ancora un malato. Sì, c'è da dire che col cambiare delle forme del capitale è cambiato anche questo concetto di produzione. Cioè oggi appunto essere malato può anche voler dire non voler partecipare in nessun modo a quella che è l'organizzazione dell'esistente. Una volta per esempio essere malato, cioè una volta essere malato poteva essere non voler partecipare proprio al lavoro inteso proprio nel momento di produzione di merce, eccetera. Oggi anche la non partecipazione all'esistente, alla sua organizzazione, può essere una malattia da curare da parte di uno di questi psicooperatori, che interviene a questo punto cercando di ricollegare proprio l'individuo che si è veramente staccato il suo rapporto con l'esistente, cercando di ricollegarlo a quella che è l'organizzazione del potere, cioè l'esistente. Un'altra cosa che ci hai nominato è appunto la questione dei psicofarmaci. Ora, rispetto ai psicofarmaci, vorremmo capire anche un pochino che tipo di funzione hanno, cioè una volta somministrati, per gli effetti che danno, che tipo di riadattamento funzionale alla società servono questi? Io penso che lo psicofarmaco possa essere utile se somministrato in modo intelligente e senza nessuna valenza aggressiva da parte di chi lo somministra e senza nessuna connivenza col potere da parte di chi lo somministra. Escludere, come succede adesso, come molti fanno, lo psicofarmaco completamente da quello che è l'armamentario di cura, di terapia nel senso vero della parola, è sbagliato, perché lo psicofarmaco può essere utile se dato in un certo modo, ma in un certo modo. Per esempio, Succede che la somministrazione di una piccola quantità di un neurolettico può all'inizio di certe forme acute psicotiche può servire, chiaramente però la somministrazione per lungo tempo dello stesso neurolettico produce a un rimbambimento del malato che non è affatto utile dal punto di vista terapeutico. Lo psicofarmaco invece normalmente è usato proprio per questa sua funzione di controllo sul malato e quindi è usato da delle posizioni di connivenza con il potere, e questo sia per quello che riguarda lo psicofarmaco antipsicotico sia per quello che riguarda lo psicofarmaco antidepressivo. Cioè la depressione in fondo è una perdita di interesse per quello che è l'esistente, per quello che è la cosiddetta vita di ciascuno, è una perdita dell'immagine rassicurante di sé, e quindi cioè, non è assurdo pretendere di volerla curare soltanto con uno psicofarmaco senza approfondire le ragioni di questo disinteresse, che qualche volta può essere l'inizio di una critica pratica dell'esistente e della propria immagine rassicurante. Non servono tranquillanti o terapie, ci vuole un'altra vita. Quindi molto spesso lo psicofarmaco viene usato da chi è in connivenza con il potere per interrompere il senso positivo che può avere una crisi esistenziale che può avvenire in qualsiasi momento e che può rompere un falso equilibrio nella vita di un individuo. In psichiatria siamo un pochino tutti un po' dei profani, no? Se non quello che ci fa capire gli organi ufficiali, no, del potere rispetto a questo problema. Ecco, vorrei capire il limite che c'è fra malattia mentale e invece quando è invece una critica anche radicale, anche spinta, anche spontanea, no, di quello che è una sopravvivenza fatta e organizzata dal capitale, quindi al di fuori da quello che è l'essere umano. Vedi, la differenza qui bisogna fare dei distinguo anche sul tipo di malattia di cui si parla, no? Malattia mentale sì, ma ce ne sono tantissime forme, alcune hanno addirittura delle origini organiche, tossiche, chimiche molto precise, no? Cioè altre no, allora parliamo di quelle che non hanno queste origini organiche molto precise, che possono nascondere una forma di critica all'esistente, no? Cioè che cosa differenzia la critica lucida dell'esistente fatta da una posizione di forza dalla critica nascosta nello scompenso psichico, no? Quello che viene chiamato proprio la situazione di scompenso psichico di una persona che a un certo punto vede franare un equilibrio, un falso equilibrio che l'aveva, in cui si era mosso fino a quel momento lì. La differenza sta proprio nella posizione di chi vive l'esperienza, no? Cioè, se tu la vivi in condizioni di forza, è una posizione per cui tu sei soggetto attivo della tua rivoluzione in quel momento lì, allora vivi un'esperienza di critica dell'esistente, superi questa, e questo ti serve per rinforzarti ancora di più, per andare al di là, per vivere un reale superamento dell'equilibrio preesistente e per trovare qualcos'altro al di là. Se invece tu vivi questo in una situazione di debolezza, non capisci bene quello che ti sta succedendo e diventi un oggetto passivo a livello sociale, per esempio finisci da uno psicooperatore, no? Perché credi che quello lì sia una cosa che succede solo a te, perché tu in quel momento lì sei malato e non riesci invece ad interpretare questo come una rottura di un falso equilibrio che hai vissuto fino a quel momento, ma lo vivi solo come tua malattia, come il potere cerca continuamente di fare in modo che tu pensi, no? Potere fare sempre in modo che tu pensi che quella roba lì è una roba che succede a te, individuo, perché sei un fallito, perché sei un malato, perché da piccolo la mamma non ti ha curato bene, perché il maestro di scuola è stato cattivo, quindi è una storia tua individuale in cui in quel momento lì tu sei un malato e finisci passivamente nella ruota della psicopolizia proprio, no? Allora ecco che tu lì diventi un malato. Cioè, lo sei e lo diventi, no? Mentre la rottura dell'equilibrio così, che qualche volta è anche accompagnata da delle crisi esistenziali profonde, quindi da dei sintomi analoghi a quelli della pazzia, no? Della malattia, cioè per esempio, non so, anche delirio qualche volta, o insonnia, però fatta da delle posizioni di forza in cui tu riesci a restare lucido a te stesso, a capire che è un fenomeno, quello che stai vivendo, storico, cioè generale, che non riguarda solo te come persona, ma riguarda tante persone che vivono la stessa situazione tua e che può essere l'inizio di un superamento, allora vivi questa esperienza come superamento e non come malattia. Chiaramente però succede che la gente che vive questo in un ambiente in genere in cui tutto vorrebbe portare a che queste persone la vivessero come malattia e non come superamento. E anche in questo senso parlo prima di psichiatrizzazione della società, no? Cioè, perché anziché queste esperienze potrebbero essere vissute come superamento, ma la psichiatrizzazione della società è tale, le categorie pseudo-psicanalitiche o pseudo-psichiatriche sono talmente diffuse che troverai sempre in quelle situazioni lì un genitore o un falso amico o qualcuno che ti dice: guarda, questo ti succede perché tu hai avuto questi problemi, o perché hai questi problemi, vai da uno psichiatra a farti curare perché sei malato, e quindi cadi nella categoria della malattia. Intanto stiamo ascoltando in sottofondo i Minor Threat, band storica dell'hardcore, punk hardcore statunitense, esattamente di Washington, band che è esistita tra l'80 e l'83, e questo è il loro album Out of Step, uscito proprio nel 1983. Sì, e nella registrazione appunto dell'intervista all'etnopsichiatra Piero Coppo, lui diceva a un certo punto che parlava della somministrazione degli psicofarmaci e diceva che possono essere utilizzati gli psicofarmaci solo però se non vengono usati con funzione di controllo e quindi non possono essere usati da persone, specialisti, diciamo, dagli psichiatri, se questi hanno una posizione di connivenza con il potere, no? Perché appunto diceva se chi somministra lo psicofarmaco è in questa posizione di connivenza con il potere, lo somministrerà non per aiutare, diciamo, al superamento di una crisi acuta, ma per interrompere il senso positivo di questa crisi, senso positivo che può portare a una critica pratica radicale del falso equilibrio della propria vita e anche però a una critica pratica radicale di tutto l'esistente. E ascoltando queste parole, io le ho ascoltate dopo aver partecipato a questo convegno, insomma, che di cui adesso vi dico due robe. Praticamente, come diceva chi mi ha preceduta, in occasione del centenario della nascita di Basaglia hanno dappertutto, ma in Friuli Venezia Giulia, insomma, hanno fatto un casino di iniziative, sfornato un sacco di convegni, e anche qua a Udine lunedì c'è stato questo convegno in sala Iace, quindi una roba tipo sì magniloquente, dal titolo Fine pillola mai. Appunto, un convegno organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale, e hanno preso questo titolo da una inchiesta di Altra Economia, un'inchiesta firmata dal giornalista Luca Rondi sull'abuso. Allora, letteralmente l'inchiesta dice: parla di abuso di psicofarmaci nelle carceri italiane tra salute mentale e controllo della popolazione detenuta. In verità, secondo me, non è corretto parlare di abuso di psicofarmaci nelle carceri, ma casomai bisogna parlare di abuso di somministrazione di psicofarmaci nelle carceri. Comunque l'inchiesta parla di questo. Ricordo che c'è stato qualche, non mi ricordo cos'era, era estate forse, un'altra inchiesta sull'abuso di somministrazione di psicofarmaci all'interno dei CPR, rinchiusi e sedati. Era sempre Luca Rondi, sempre questo giornalista che l'aveva fatta, ed ero andata anche a quella presentazione a Gorizia, questa volta al centro di salute mentale di Gorizia. E, insomma, due robe, magari metteremo nel blog i riferimenti a questi due numeri di Altra Economia, se qualcuno vuole andare a leggere, insomma, queste inchieste. È un'inchiesta molto, con tanti dati, diciamo, tantissimi numeri, tantissime tabelle. Sono state indagate, analizzate le situazioni di 15 istituti penitenziari, quegli istituti che hanno dato poi i dati, diciamo. Si parla di 2 milioni di euro all'anno per l'acquisto di psicofarmaci all'interno delle carceri, 5 volte tanto, cioè la cifra è... quello che avviene fuori dalle carceri è un quinto, insomma, la spesa complessiva fuori dalle carceri è un quinto di quella interna, quindi vuol dire che dentro si consumano 5 volte tanto psicofarmaci, soprattutto antipsicotici, di quello che avviene invece fuori dal carcere. Una indagine quindi dettagliata, e purtroppo, per come la vedo io, insomma, non molto, sì, che non esercita, diciamo, una critica all'istituzione totale in quanto tale, no? Cioè, come se ci fossero delle disfunzioni all'interno delle istituzioni totali, siano carceri, siano CPR, siano case di riposo, purtroppo anche, no? Quindi anche strutture tra virgolette civili, che dovrebbero essere di cura e non di contenimento e punitive. E si diceva come se ci fossero, appunto, delle disfunzioni che dipendono non da professionisti, strutture, sistemi, istituzioni, ma da, non so, entità soprannaturali. Cioè, non si parla mai in queste cose di responsabilità specifiche e di come anche agire per interrompere certe situazioni. Allora, rispetto al convegno, la cosa che a me ha colpito, si diceva prima di questa retorica anche su Basaglia, anche perché viene poi nominato Basaglia senza poi arrivare neanche ai contenuti, cioè i contenuti sono veramente passati così alla leggera, addirittura la famosa frase "e tu slegalo subito", che Basaglia, insomma, questa indicazione che Basaglia dava ai suoi, agli altri medici più giovani di lui, insomma, nel momento, cioè, per, diciamo, per andare contro il contenimento fisico, cioè lui non stava lì tanto a dire devi scrivere il protocollo, devi convocare d'urgenza la riunione, no, diceva "e tu slegalo subito", no? Lui lo scrive. Già in questo convegno qua invece viene fuori: se tu vedi uno legato, cerca di capire, applica il protocollo, tipo, quindi una, come dire, una burocratizzazione anche delle robe, va bene, dette ai tempi. E, sì, i soliti, era organizzata, come ho detto, dal Dipartimento di Salute Mentale, poi c'era il garante dei diritti dei detenuti, e sì, tantissimi tra il pubblico, praticamente solo addetti ai lavori, non ho visto minimamente, insomma, parenti di persone prigioniere, persone che magari possono avere avuto o avere tuttora le loro problematiche, così, di equilibri, diciamo, di stare al mondo. C'era quindi un convegno per addetti ai lavori, quindi ci saranno i crediti lì, quelle cose lì, che se tu sei presente va bene, se non sei presente non va bene. Poi c'erano anche delle assenze che si notavano, parlando di carcere e parlando di area sanitaria del carcere, c'erano delle assenze, persone responsabili che non si sono presentate, ma infatti cosa gliene frega di venire a sentire quello che succede dentro il carcere. E così, insomma, una roba abbastanza, una situazione abbastanza pesante, ma purtroppo sì, è veramente quando si affrontano questioni di questo genere all'interno delle istituzioni e da parte delle istituzioni, non esce mai niente di buono, perché c'è una dimensione di propaganda e di autoassoluzione, diciamo, e di parlarsi tra addetti senza mai toccare il punto, no? Cioè, per cui c'erano questi psichiatri, due psichiatri, uno di Udine e uno di Gorizia, che vabbè, a parte che hanno detto ribaltare le istituzioni totali dall'interno nel rispetto delle leggi, che siccome le leggi prevedono, cioè vabbè, quindi senza neanche contestare le leggi, mettiamo, no? Nel rispetto delle leggi. E poi parlavano di gocce nel mare, così. Sì, persone che sono dentro le strutture carcerarie dal 2005, quindi da 20 anni, non da un giorno, no? Fanno gli operatori, quindi hanno una responsabilità. Non faccio i nomi perché me ne guardo bene. Hanno una responsabilità precisa, invece sembra appunto che ci sia un dio o un demone che al loro posto li manovra, cioè anzi che li manovra e fa sì che i prigionieri assumano questi antipsicotici o anche altre droghe legali in maniera fino a andare, cioè perdere, diciamo, la propria personalità e essere messi nelle condizioni di non esercitare questo, appunto, questa critica pratica radicale alla propria esistenza, ma anche all'esistente in generale. E sì, insomma, questo, una cosa sì, pietosa, ecco. Sì, e poi appunto è stato anche detto dal giornalista, e questo mi ha colpito anche questo, è una bellissima cornice, siamo qui a fare questo, a parlare di robe brutte come il carcere in questa bellissima cornice della sala Iace, sì, ma cioè sì, cioè mancava completamente la vita, ecco, in questo convegno mancava completamente la vita, e quindi la possibilità di anche di contestare in qualche maniera quello che veniva, o di chiedere dettagli, cioè di chiedere conto di quello che veniva detto. E niente, sta gente non ha speranza. Come capita qualche volta, insomma, stiamo un po' sforando coi tempi, nel senso che avevamo previsto di parlare anche dell'arma del genere e della sessualità in Palestina. Allora, torneremo sull'argomento, abbiamo già parlato anche di queste cose altre volte. Volevo solo leggere un pezzetto di un articolo di una giovane ricercatrice del Kashmir che si chiama Samrin Mushtaq, e che parla appunto di armare il genere e la sessualità. E ci dice: ci sono modi in cui il genere e la sessualità sono stati specificamente utilizzati per giustificare i crimini in corso. Ciò a cui abbiamo assistito come parte di questo genocidio e della sua guerra narrativa è il femminismo della sicurezza in mostra. Donne che si uniscono al violento apparato di sicurezza come parte delle forze di difesa israeliane, che vengono presentate come simboli di progresso e uguaglianza e meritevoli di aprire, virgolettato, nuovi confini. In molti modi diventa un modo per rafforzare l'immagine dell'esercito, poiché la presenza delle donne cerca di far apparire l'esercito più umano. Dopotutto le donne sono apparentemente gentili e premurose e quindi l'istituzione che rappresentano è una proiezione della stessa natura benevola. È anche un modo per fare appello alle rivendicazioni sull'uguaglianza di genere, secondo cui le donne sono partecipanti paritarie, hanno pari opportunità e sono equamente coinvolte nella lotta, tra virgolette, giusta, contro, tra virgolette, l'altro terrorista. Si parla dell'utilizzo dell'arma del genere e della sessualità. Queste donne, definite coraggiose, che lottano per il loro diritto di proprietà sulla terra palestinese, rappresentano la forma perfetta di soggettività femminile rispetto alle donne palestinesi altre. In aggiunta allo spettacolo delle immagini della conquista, si riferisce a queste immagini abominevoli dei militari che appunto entrano nelle case dopo aver cacciato o ammazzato uomini e donne palestinesi e vanno a frugare insomma negli armadi, e quindi poi mettono in mostra gli indumenti intimi delle donne. Abbiamo anche visto una dopo l'altra immagini di soldati israeliani che mostrano allegramente la biancheria trovata nelle case che hanno distrutto, da cui hanno cacciato i palestinesi, abiti appartenenti a donne che potrebbero essere state uccise o sfollate. Nelle case in rovina, tra le macerie di quello che un tempo era lo spazio personale di una famiglia, trovare ed esporre oggetti intimi come esibizione di mascolinità militare fa emergere in qualche modo un'emozione di gioia assoluta, unita all'umiliazione e alla disumanizzazione a cui cercano di sottoporre i palestinesi. È come se i colonizzati non dovessero avere una vita intima, e come se queste immagini fossero intese come una esposizione della vita personale dei palestinesi, dei loro desideri e delle loro intimità. Questa violenza visiva, volta a rivendicare il potere, disumanizzare e umiliare i palestinesi, è una dimensione costitutiva dell'occupazione militare e racconta come essa si diverte nel suo controllo degli spazi pubblici e privati. Stiamo ascoltando questa band londinese che ha fatto due album tra il 2013 e il 2014. Loro sono gli Unfixed, questo è il loro album Battleside. Bene, allora mentre stanno andando questi Unfixed in sottofondo, come ho detto, band londinese, siamo ormai giunti anche al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, ricordo ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30. Trasmettiamo qui da Udine, oggi è 14 marzo. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste, e come ogni volta alla fine della trasmissione vi leggiamo i nostri contatti, che sono chi volesse scriverci tramite posta elettronica deve solamente ovviamente scrivere a liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure scriverci ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121, ripeto, intestare ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre, chi vuole ascoltare questa trasmissione, ma anche tutte quelle delle volte precedenti, può andare in rete e cercare zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, siamo al termine proprio. Salutiamo tutti, anche chi ci ascolterà domani in replica dalle ore 17 sulla web radio Radiazione. Ciao a tutti, vi lascio con ancora un brano, probabilmente forse due, ma non credo, di questi londinesi Unfixed dal loro album Battleside, datato 2013. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.